L'invenzione e la diffusione delle macchine nella manifattura tessile e in altre industrie crearono un nuovo fabbisogno di energia, quindi di carbone e di motori a vapore. E tanto questi motori quanto le macchine avevano un vorace appetito di ferro. Ciò richiedeva altro carbone e altra energia. Il vapore poi rese possibile la città fabbrica, che assorbiva inaudite quantità di ferro e di carbone. La lavorazione del flusso crescente dei manufatti richiese grandi quantità di sostanze chimiche, alcali, acidi, coloranti, e tutti questi prodotti, siderurgici, tessili, chimici, dipendevano dal trasporto delle merci su larga scala per via di mare e terra. L'opportunità che venne così ad aprirsi diede origine alla ferrovia, alle navi a vapore, i quali naturalmente incrementarono la domanda di ferro e di combustibili, allargando gli sbocchi di mercato per i prodotti delle fabbriche, e così via, in cerchi sempre più ampi, sempre più ampi, sempre più ampi. In questo senso la rivoluzione industriale segnò una svolta decisiva nella storia. Questo l'ha fatto Gian Maria Volonté. Nel film La classe operaia va in paradiso, la scena, un pezzo un culo, un pezzo un culo, questo è un pezzo di quelli, autentico, l'ho conservato come una reliquia io, praticamente. E Gian Maria Volonté aveva imparato a usare il tornio, lo faceva lui direttamente, che attore, attori così, attore... non... erano altri tempi, diciamo. Hanno dovuto girare la scena parecchie volte, quindi lui ogni volta ne faceva una decina. Io ero là, inverno del 71, un giovane assistente, l'ho preso, no? E conservato come una reliquia, perché attraverso questo dado filettato si può vedere la storia del movimento operaio. Se uno ci guarda attraverso, capisce. Non interessa. Non interessa più. Diversamente. Ti stai dicendo? No, vabbè, ci sono due tre problemini in ditta, alcuni di noi sono in pieno. Sì, problemi. No, scusami. Non capisco niente di quello che dici, adesso ti ascolto. Sì, no, dico, guarda, se partiamo il mio nome sarà il primo della lista. Che lista? C'è una lista in ufficio, tutti stanno cominciando a stringere le chiappe, sai? Ma non me l'hai mai detto? Beh, non ti volevo inquietare. Ma dico, stai pensando... No, dimmi. Non possiamo partire? No, scusami, non ho capito. E i biglietti? Ma noi partiamo! E parliamo poi! Oggi sarebbe un suicidio. Le nostre vacanze? No, cioè, si tratta delle nostre vacanze, E allora non capisci quello che ti sto volendo dire? Partiamo, sì. Però partiamo per le vacanze illimitate. Come faremo con tutti i nostri debiti? C'è un macello. No, un tale macello che magari ci ritroveremo a cantare gospel nel metro. Forse finiremo anche da quelli della Caritas. Ti piacerebbe finire da quelli della Caritas? No, neanche io. No, li amo, li rispetto, come tutti. Da lontano. Non ho studiato economia e commercio per sentirmi dire che gli ultimi saranno i primi. È probabile che tu debba imparare a parlare il senegalese. Per farti capire dalle tue vicine di tende africane. Mentre io sono costretto ad andare a cacciare selvaggina per parchi. No, non va bene. va, eh. Non va. Lo dico io che non va. No, però perché mi devo sempre inventare delle storie allucinanti per farti capire cose semplici? Ma perché è grave? Giampaolo è stato cacciato. Giampaolo. E tu non mi hai detto niente? Ebbene, non ti volevo inquietare. Lo hanno licenziato il mese scorso. Ma tu non sei stato minacciato, no? No. Sono contento. No. Come no? Sì, io... sì. No, perché sei tu che me lo hai detto, eh? Guarda, il mio capo, sai, il Bertani, mi ha fatto intendere che è meglio che resti qui. Sì, ma come? Come te l'ha fatto intendere? Ha cominciato a parlare di ristrutturazione. Sai, il periodo è complicato, ma il reengineering dice che deve fare delle scelte. È incredibile, però, eh! Ho sculettato come una troia per tutto il giorno. Sono arrivato al punto di dirgli che la vacanza non ci tengo, partire non mi interessa più. No, scusami, io chiamo Giampaolo. No, non si risponde. Si è chiuso in casa da 3 settimane e non vuole vedere nessuno. Per lui è stato un colpaccio. E tu non mi dici niente! Ma io non ti voglio inquietare, per questo non ti ho detto niente. Giampaolo è stato licenziato. Sì, ma vedi che non era l'ultimo a leccargli il culo. Si era scoperto una vera vocazione in quel campo. Arrivava per primo, usciva per ultimo, gli portava il dossier in ufficio. Ha tentato di rubare anche il mio dossier. Giampaolo! Scusami, non riesco a credere che abbia fatto una cosa del genere. Eravate amici. Quando ci si gioca la pelle amici non ce ne sono più. No, non ci credo che ha fatto una cosa del genere. Scusami. Sono andato a trovarlo l'altra settimana. Si è messo a bere. Mi ha trattato come una merda e credo che sia sul punto di impazzire. Ma perché non me l'hai detto? Ma perché ho paura, non ti dico niente. Ho una fifa nera. No, ma Giampaolo non tocca un goccio di acqua. Ah no? Adesso ci dà dentro però, Giampaolo. Ma tu fai come lui? Cosa vuol dire? Gli lecchi il culo. Ma dai, ma che modo è di parlare questo? Dai, ma tu sei un dirigente. Ah sì, allora? E allora non rischi niente perché sei un dirigente. Ah, e lui che cos'era, un centralinista? Che succede adesso? Non lo so. A questo punto dipende solo dal Bertani. Beh, però tu dicevi che era una persona gentile. Ah sì? Come Himmler, gentile. No. In periodo di crisi sopravvivono solo quelli che sanno adattarsi alla situazione. Me lo ripete tutti i giorni. Per quanto mi riguarda non si tratta più di adattamento. È una rivoluzione molecolare. Io sto mutando geneticamente, mi trasformo, la lingua. Se penso che all'università, a livello di estrema sinistra, mi viene da ridere. Ormai sono diventato maestro nell'arte di leccare i genitali. A quello piace, no? Non mi dispiace affatto. Anzi, mi chiede il bis, me lo porto un caffettino su di corsa, con quel sorrisino mieloso. Io sento che lui vuole la mia pelle, lo sento, sento che è una cosa personale. Ma non ti devi far trattare in questo modo. Hai un'idea? Dimmelo, vediamo te. Sì, ci sono delle leggi per difendere. Ah, le leggi? Amore mio. Si vede che da un bel po' che non lavori più. La lotta sociale è finita. Tutto quello che era di sinistra in questo paese non esiste più. Mettitelo in testa una volta per tutte. Ha 2 anni dalla pensione quello intoccabile. Ha salito tutti i gradini leccando i posteriori che si è trovato sulla sua strada e adesso si vendica. Naturale, mi dirai tu, e io potrei anche capirlo. Il fatto che però lui mi tiene sotto mira. Io faccio un passo falso e lui, bang, morto. Guarda, era meglio se partivo per Berlino con Gerardo e gli davo una mano ad aprire quella ditta, come volevo fare. La ditta ha fatto fallimento, non è durata. Ah, questo non me lo ricordavo. Lui si è lanciato nell'apicoltura in Romagna. Ma dove andiamo a finire continuando così? Dove andiamo a finire? Me lo sai dire tu? Dove andiamo a... Che cosa vuoi che io ne sa? Ma è ovvio, ovvio, certo. Un'idiozia da parte mia pensare che tu possa fare un'analisi economica dei prossimi 20 anni soltanto perché io te lo sto chiedendo. Calmati, calmati. Cioè mi crolla il mondo avanti. Ma come faccio a calmarmi? Calmati, basta, calmati. È tutto finito, va bene? Ci sono anche io adesso, calmati. Che cosa posso fare, cazzo? Che cosa posso fare? Cazzo. Vai nel suo ufficio e spiegali chiaramente la situazione. Il suo ufficio? Il suo ufficio è il luogo più pericoloso che io conosco. Quando entro lì dentro ho l'impressione di ritrovarmi nella giungla. L'aria diventa appiccicosa. Io comincio a sudare, mi vengono le palpitazioni e lui che mi aspetta sempre sorridendo. E io lo so che sta per cominciare una lotta. La parte peggiore, quando comincio a parlare di filosofia, mi viene una cosa qua e lui mi obbliga a rispondere alle sue divagazioni sulla vita, sulla morte. Io non so che cosa devo dire. E allora comincio a imbrogliarmi sui rapporti tra la fisica quantistica, il libro tibetano dei morti, e lui che mi osserva in silenzio, con quello sguardo lì, tipo, tipo Marlon Brando in Apocalypse Now, te lo ricordi? Te lo ricordi quello sguardo lì? No, il suo ufficio no. Io ho una sola possibilità, ed è di continuare a leccargli il culo. Anzi, non di più, migliorarla la mia linguata. Cosa vuoi che faccia? Ti vada a spaccare la testa? Così mi licenziano senza liquidazione? No, 2 anni. Devo tenere duro 2 anni. E se lecco bene tutto quello che mi passa davanti, con un poco di pazienza avrò il mio posto. Forse è il mio turno, quello di farmela leccare io la cotenna, perché me lo sarò meritato. Prego, portatemi un caffettino, fidati tu, fidati di me che tutto cambierà per noi. E che dici? Un caffettino? Ah no, non va bene il caffè così. Ci vogliono qui che di zucchero, sì? Bene, questo non va bene. Devo rimanere indietro. No, arrivo in ritardo. Il periodo è complicato. Sapete, il regino. E poi darò io gli ordini. E tutto cambierà per noi. E poi sarà bello. E poi sì, ve lo faccio io il culo. Poi prego. No, deve fare quello che dico io. Qui comando io, certo. E certo, faccio quello che dico io. E fate quello che dico io. Anche le dici, ti piacerebbe vedermi, eh? E si capisce bene che c'è qualcosa di vero, no? In questa storia della lotta di classe. Tu prova a dire a uno che ha perso il lavoro e che non lo trova che il capitalismo è meglio del comunismo. Vedi quello che ti dice? Ragazzi, secondo me Marx si capisce meglio quando ti licenziano. quello che penso è che Marx resta valido nella misura in cui le cose lui le pensava, vuol dire in accordo con la sua epoca, però anche ora è Marx, se ci fosse, direbbe ancora delle cose, non si sposterebbe molto da quello che diceva allora, ma allora quindi vuol dire che resta valido ancora per moltissime cose attualmente, e allora Marx è vivo. Chi l'ha detto? voglio dire, Marx, quando dice che... Eccolo là. Allora, quando parla della vittoria del proletariato, non è una cosa qualunque, vuol dire qualcosa che ci mette in discussione, anche perché bisogna chiedersi oggi chi è il proletariato? Ragazzi, io me lo domando, chi è il proletariato oggi? Evidentemente possiamo anche fare a meno di farci delle domande. E allora, attenzione, che loro là se la ridono, perché fanno di tutto per farci credere che Marx è morto, che non c'è più niente da dire. Allora là Marx è morto, fanno girare la voce dappertutto, sui giornali, alla televisione, alla televisione, tutti i giorni, 3500 giorni all'anno in qualche modo ti fanno capire che Marx è morto, che non c'è più niente da dire. Ci sanno fare, eh? Oh, ragazzi, capito? Ci sanno fare. E non li fa nemmeno più incazzare, perché bisogna dire che invece li ha fatti incazzare parecchio, eh? Gli ha messo dei bei bastoni tra le ruote del capitalismo, con tutte le sue storie della lotta di classe, della vittoria del proletariato, tutto il resto. Tutte quelle lotte. Perché le cose acquisite non sono innate, perché le abbiamo acquisite. Ed è chiaro che loro fanno di tutto per farci credere che Marx è morto. Ma se guardiamo da vicino, non è portato morto, eh? E noi faremmo male a pensarlo, perché, come dire, come ve lo posso dire, ragazzi, se noi pensiamo che Marx è morto, allora è finita. Si apre la porta a tutti gli abusi, si possono permettere di tutto, visto che anche Dio è morto, che cosa ci resta? Dio non sappiamo nemmeno se è nato. Marx è morto, d'accordo, se lo vogliamo, ma si sa che è nato, e non lo possono negare, questo è un bel vantaggio, ragazzi, no? Questo è un argomento. No, Marx non è morto per tutti, questo è sicuro. Marx è morto se lo vogliamo. Marx, se ci fosse, facciamo che ci sia, direbbe senz'altro che le cose... Marx, Karl Marx, direbbe senz'altro che le cose sono diventate più difficili da capire con la televisione, ma direbbe anche, attenzione ragazzi, non è detto l'ultima parola, perché lasciatemi un attimo per analizzare questo casino, vi dirò come funziona, avrebbe chiarito tutto, illuminato tutto, visto che oggi nessuno è più d'accordo su niente, ragazzi, nessun problema. Ma quelli che dicono che Marx è morto hanno un'idea fissa in testa, quella di farci credere a noi che Marx è morto, costringerci, voglio dire, tra di noi a dirci che Marx è morto. Ma e questo è molto importante, è la cosa più importante, come ve la posso dire, se noi davvero pensiamo che Marx è morto, allora è tutto finito. Certo, allora sì, là è morto di colpo, non c'è più niente da dire. Ah, si può parlare a vuoto così, si può parlare a lungo. Ma non vorrete farmi credere che non esiste più la lotta di classe? Con tutta questa disuguaglianza che c'è in giro, ragazzi, non vorrete farmi credere che non esiste più? Ma bisognerebbe essere ciechi per non vederla. Tutti questi esclusi che nessuno per strada, nella merda, e che cazzo? Ma le classi sociali esistono ancora? È lì il problema. Ci sono ancora le classi sociali? Ogni escluso è una classe sociale a sé stante, che non ha niente a che vedere con l'altro escluso, che a sua volta è una classe sociale a sé stante, e tutti questi individui si escludono a vicenda, senza fine, senza capire come si... Non si sa più, ma non si sa proprio più niente. E questo fa paura, vero ragazzi? Non si sa niente di niente, ma più niente, niente, niente, niente, niente. Ma niente, niente, e non fa ridere. Questa storia finisce nelle strade. Non possiamo continuare così senza sapere se è morto o no. Bisogna pure che prima o poi succeda qualche cosa, no? Che la gente cominci a dirsi... Allora, scusatemi, ma non bisogna essere laureati alla Bocconi per capire che prima o poi succede qualcosa, ma qualcosa di tremendo, non può andare avanti così, ragazzi. Non bisogna essere laureati alla Bocconi per capire che così non può andare avanti, che prima o poi succede qualche cosa, la gente comincerà a dirsi... E che ne so io? Ma io non so niente. Ma niente, niente. solo Marcos. Ragazzi, una botta di mazza si riparte, che bisogna reagire. Bella performance a te. Allora tu hai il tuo lato artigianale che mi è sempre piaciuto tanto, sì. E poi sei così fissato con il lavoro ben fatto che sì. Non lasci mai il banco prima di essere soddisfatto. Parlo. Non mi interrompere, aspetta. Ami raccogliere i frutti del tuo lavoro. È come un operaio coscienzioso che non si tira mai indietro. Dall'inizio sono rimasto colpito dalla tua competenza professionale. Hai in te una superba aggressività tanto ricercata nel settore tecnico commerciale. Tu sei più performante di una macchina utensile. Nel tuo martellamento io sono l'incudine, ma tu sei la mannaia del macellaio che si è fatto sei la macchina che frantuma l'acciaio e lo sottomette. La macchina che fa pezzi il metallo, che lo contorce, torce, fonde tra le urla. Tu sei la macchina, sazia il lavoro con quella bocca spalancata che le chiede ancora la macchina che è il lavoro. Tu esisti solo per il lavoro, non ti fermi mai. La tua fame di lavoro è insaziabile, il tuo bisogno di veder rinnovare il lavoro giorno dopo giorno è violento come una promessa. Tu sei loro. Tu sei loro. Tu sei loro. Tu sei loro. Noi siamo il lavoro. Questa è la pipa di Jean Paul. Jean Paul Sartre. Lui la fumava al Café des Fleurs mentre scriveva. Io l'ho tenuta, l'ho conservata come una reliquia, perché attraverso questa pipa è passato tutto il fumo dell'esistenzialismo. Questa pipa ci parla della crisi dell'uomo in rapporto al vivo. Hanno sistemato bene. Va bene, sì. Questioni professionali. Cioè, no, stavo parlando dell'esistenzialismo. È fondamentale per capire come andiamo avanti. Senza quello non si riesce. Professionalità. Certo, giusto. Certo, la professionalità. Come il dado di prima. Il dado fidentato. Beh, il professionale, eh. Dico, bello, no? Pezzo culo, pezzo culo. Sai che ho cercato. E già Maria Volonté non faceva tardi in quel film. Faceva giunti e non avevano la filettatura. No, dico per la precisione. No, ti te la regalo, un rotamaio questo. Precisione, professionalità. No, lo farò tutto io, non arrabbiare. Tutto io. Tutto io. Tutto io. Fa sempre tutto lui. Da soli, tutto loro, la vostra generazione avete fatto tutto voi, eravate eroi, vero? Eroi, tutti eroi, faccio tutto io, eh! Che cazzo, non sentiamo a niente proprio, manco le sedie. Tu dietro lì, dai, dai, dai, tu, ma che c'è tu? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ah, buongiorno. Adesso vediamo cosa sanno fare. Allora, tutto bene? Ah? Sì. Bene, bene. Fa caldo qua, eh? Ah? Non avete caldo? Fa un... Il tempo è completamente impazzito, eh? Sì, completamente. Non si riesce a lavorare in questa situazione. No, dico, no, è colpa dell'inquinamento. Ci sono sempre 2-3 gradi in più rispetto agli altri posti. Ma guarda, lei crede? Un pochino lo sento, un pochino di gallo. Saremo meglio in spiaggia. Allora, vediamo. Si tratta di due posti da animatori del parco acquatico Aquapluff che apre il prossimo mese. Siete interessati? Sì, certo. Sì. Allora, vedo qui dei vostri curriculum che direi che qua. Sì, siete adatti a ciò che stiamo cercando, quindi posso dire tranquillamente che possiamo firmare il contratto già per tutte e due. Grazie. Dai, il volto di qualcuno che si illumina perché ha fatto lavoro. Grazie, grazie. Sono di grande soddisfazione. Grazie. Però qua però mancano le fotografie. È una questione di precisione, di professionalità. Certo. Ma andiamo avanti, benvenuti a bordo comunque. Grazie. Allora, procediamo a un piccolo riassunto dei vostri percorsi lavorativi. Giusto per definire il contorno dei vostri profili psicologici, stabilire le vostre tipologie creativo-comunicative. Ma non mi preoccupate, tutto questo serve per circoscrivere le vostre capacità nel gestire future responsabilità e la possibilità di ottimizzare meglio il vostro potenziale evolutivo e le vostre attitudini a creare performance. Bene, vi comunico anche che la Quaplus persegue una politica di motivazione interna che genera un turnover positivo, il che può farvi sperare di salire rapidamente gli scalini della gerarchia. Ah, oh, formidabile! Formidabile! Allora cominciamo da lei, formidabile. Quale funzione esercitava prima? Puffo al bilancio. Perché genere di puffo? Puffo forzuto. Bene. Bene. Puffo forzuto. Puffottone. Cosa è successo? Per restrizione di organico. Puffo disoccupato allora. Scherzo, l'umorismo è lo strumento migliore per attenuare le situazioni conflittuali e gestire il potenziale umano. Capisco, capisco. Sono sicuro che lei capisce. Io? Paperina, è uno Disney. Paperina. E cosa è successo? È che ero stufa dei paperi. Beh, ma cosa intende? È che non ne potevo più dei paperi. In che senso? È che ero stufa. Ma va bene, ma in dettaglio? Che non ne potevo più, mi avevano rotto. Vuol dire che se n'è andata la sua iniziativa? Sì, sì, è quello che voglio dire. Vuol dire che lei ha lasciato il lavoro di sua iniziativa? Sì, sì, sì, è quello che stavo dicendo, che i paperi non mi interessavano più, mi avevano rotto. Non le interessavano più. No. Le faccio presente che il lavoro è di carattere robotico e quindi dovrete essere mascherati da coniglio. Non è un paio, E che il vostro viso non si vedrà. No, ci sono i due buchi, no, per gli occhi, la succede. Prego. Mio marito mi ha detto che noi. Era una battuta. Che razza di battuta? Qualcuno ha un cellulare qua per cortesia? Qualcuno ce l'ha un cellulare? No, no, tranquilli. Grazie. Allora, scusatemi un attimo, mi devo assentare perché devo fare una telefonata. Scusate, non passo di qua più c'è. Sì. Pronto? Sì. Siamo due, due posti. Meno male perché sono un po' emozionata. Sì, non c'è nessun altro. Sennò... Di dove sei? Io di Pordenone. No, niente, ci credo, ci vedo. E tu di dove sei? Ah, io di Siena. Ah, Siena, sì. Bella Siena. Era del padre, sì, lì, sì. E di che contrada? Dell'Oca. E non ti piacciono i paperi? Sempre queste battute di merda. No, non era una battuta, era... Ma te che lavoro fai? Lavoro a teatro? Sì, ora no? Che lavoro fai adesso? Non stai lavorando a teatro? No, adesso no, negli ultimi 7 anni ho fatto il buffo al villaggio. Com'è? Ah, bella situazione, il villaggio, si stava benissimo. Io stavo ai forni, una goduria. Eravamo io, Puffo Timido, Puffo Quattrocchi e Puffetta. Io e gli altri due stavamo su Puffetta, ma stavamo sul pezzo, eh. Però Puffo Timido stava su di me, sempre. Ci ho messo un po' a farlo allontanare, diciamo, alla fine si è rilassato un po', adesso Puffo Timido sta con Puffo Quattrocchi. Però si stanno buffando Puffetta e io sono rimasto così, quindi... Bene, bene, bene, bene, bene. Grazie per il cellulare che me l'ha dato. Non funziona tanto bene. Devo dire, è un po' riuscivo. Allora, ho parlato con Acqua Proof, mi hanno detto che purtroppo c'è stato un contro... Insomma, c'è solo un posto disponibile. E quindi? E quindi dobbiamo scegliere tra voi due che meglio risponde alle condizioni di ingaggio. Chiaro. Va da sé che noi ci impegniamo a considerare il caso di quello che non sarà scelto come prioritario per il prossimo ingaggio. Chiaro, sì, morale. Sì. La cosa più semplice sarebbe che uno di voi rinunciasse a vantaggio dell'altro. Lei Paperina cosa ne pensa? Che cosa devo fare? Allora cominciamo dal buffone, cominciamo con l'analisi. Sì. Lei di che segno è? Il cancro. Ascendente? Non me lo ricordo l'ascendente. Non me lo ricordo. Cancro va benissimo. Ah. Lei? Pesci, pesci è perfetto per Acqua Pluff. Ascendente? Cancro, eccellente. Ah, no, mi sono ricordato adesso. Sono ascendente pesci, per Acqua Pluff. E nell'oroscopo cinese sono tigre dell'acqua. Tigre? Sì, tigre, c'entra. E mi corrisponde perfettamente la tigre. Allora cominciamo da lei, tigrotto. Faccia vedere quel che sa fare. E qui adesso, così? E domani? No, adesso, certo. È che è una cosa un po' speciale. Noi stiamo cercando personale specializzato, quindi... Bene, mi preparo. Ciao, Puffetta! Come stai? Ah, scusi, posso parlare? Certo! Ciao, Puffetta! Ma che bel nasino che ti abbiamo! Come stai? Dai la mano alla tua amichetta perché i Puffetti vanno tutto insieme! Ciao, ma come siamo bellini! Ciao, abbiamo tante Puffette, pensate io che mi occhialoni, anche li abbiamo rubati questi occhialoni, come li chiamiamo bene, questi dentoni, l'abbiamo di nostro scherzando, sono puliti. Dai la mano alla tua amichetta, perché i Puffetti fanno tutto insieme. Era così. No, è che senza costume non è proprio la stessa cosa. No, va benissimo, interessante. Davvero? Grazie. Allora, io vi ho portato un'altra cosa, vi voglio far vedere un pezzo che ho preparato, tratto da cabaret. No, lasci perdere, ci faccia vedere quello che sa fare, su. Io ho preparato questo pezzo. Non ci interessa quello. Su, Paperina, non sfugga. Preferivo fargli vedere una cosa un po' più... Paperina, su! No, io non la faccio, Paperina. Guardi che c'è gente che sta aspettando in queste situazioni. Non potete permettervi chissà quale cosa, eh? Non sono i tempi. Lei ha bisogno di lavoro? Sì. E allora ci faccia vedere quel che sa fare. Su! Va bene! Buffone, il contratto è suo. Davvero? Grazie. Qual era meglio secondo lei? Che cosa devo fare? Paperina, che serve più Paperina? Che serve più Paperina? Scusate, che cosa devo fare? Sartre, Juliette Gréco, che ballavano il bebop con Boris Vian alla tomba, a Saint-Germain-des-Prés. Qualcuno se lo ricorda l'esistenzialismo? Qualcuno li ha visti? Sarà successo una volta, una volta mai bastato. Fino alla fine della Terra si è sentito parlare dell'esistenzialismo. A Parigi, da lì è partito tutto. Ma poi, no? Qualcuno si ricorda vagamente che cosa vuol dire l'esistenzialismo? Interessa a qualcuno? Qualcuno di normale, qui, oggi. A parte i commercianti e le agenzie immobiliari di Parigi, che lì lo senti scorrere l'esistenzialismo e te lo fanno anche pagare. Capito? La verità è che Parigi è una città di ricchi. Calcutta è una città di poveri, ma Parigi è una città di ricchi. Anche questa è una città di ricchi. Infatti qui tutti votano a destra, o quella a sinistra, che è sempre destra. La maggioranza qui vota così, vorrà dire qualcosa. Anche io voto così. Io non sopporto l'idea di stare con una minoranza. È più forte di me. Già è tanto difficile farsi accettare quando si presentano tutte le caratteristiche della normalità, poi far parte di una minoranza. No, io voto con la maggioranza. Perché ogni volta è una vittoria annunciata. E io le vittorie annunciate le adoro, prima, durante, dopo, dall'inizio promettente fino all'annientamento finale. No, sbaglierei a privarmi di un piacere simile, vero? Io sto decisamente con la maggioranza. Come cittadina svolgo il mio dovere elettorale, partecipo alla vita della città, sempre come vuole la maggioranza. È l'istinto gregario. Il piacere di stare insieme. Far parte di una minoranza è un motivo in più di paranoia. Masochista, poi che altro? Schizofrenica, cattolica tradizionalista. No, già le persone sono tutte nervose in questa città. Ci sono tutte le nevrosi qui, tutto il catalogo dell'angoscia. E allora i rapporti umani sono, come si dice, no? Sono infetti. Sono talmente infetti, tutto il tempo a battersi, una lotta permanente, senza fermarsi mai, senza prendersi un po' di tempo. Ma per che cosa? Per non affondare. I barboni, nelle strade sotto i ponti, erano dirigenti di livello superiore. Poi riorganizzazione, disoccupazione, alcol e 6 mesi dopo ridotti allo stato di sottouomini, intoccabili, abbandonati da tutti, la moglie, l'amante, i figli, gli amici. Se la sono data tutta a gambe da un giorno all'altro, È l'incredibile che è diventato realtà. E allora poi lo vedi nei loro occhi sconvolti, parlano al vuoto, passano il tempo a rimuginare sul proprio stupore. No, ma è poco, È ridicolo. Passi una vita intera con dei punti di riferimento e poi d'un tratto, hop, la metafisica, più niente, il vuoto, la vacuità, è semplice. È come un'equazione, niente soldi, niente vita, dimmi quanto guadagni e io ti dirò chi sei, funziona così! E allora per forza i rapporti umani sono ridotti, no? Sono annientati, sono annichiliti, i disoccupati sono divorati dalla vergogna, sono distrutti dalla vergogna di non lavorare, si colpevolizzano di essere senza lavoro, si colpevolizzano di essere senza soldi, è un meccanismo di autodistruzione che non li lascia più. Allora la fase terminale la vedi nelle strade o sotto i ponti, però è interessante da studiare per un biologo queste sindromi di degradazione corporea, ma da un punto di vista psicologico è inquietante, e da un punto di vista umano gli effetti sono devastanti, tremendamente demoralizzanti e tremendamente traumatizzanti. Le autorità competenti non hanno trovato un modo per non farcelo vedere. Sono poco competenti le autorità da questo punto di vista, a meno che non lo facciano apposta, per motivare la massa laboriosa, istigare la fibra operaia con l'ago della paura. I barboni sono utilizzati a scopo didattico, quotidianamente riutilizzati che il concetto entri bene nel cranio, cavi e sacrificali di un vasto programma di destrutturazione mentale, di FIFA organizzata, inoculata goccia a goccia, dei veri tableau vivant che urlano la verità di quello che ci aspetta se noi usciamo dall'ambito dell'impresa, psicotropi come regolatori sociali, sotto ansiolitici non spacchi le vetrine, le lecchi. Allora, dai, bello, via, andiamo, dai, prendi quella roba da porti qua, via. Per cominciare parlami in un altro modo. Io ti parlo come voglio, non ti piace. Ah, è lo stesso. E allora qui comincia male. Cosa comincia male? Comincia molto, molto male. Ma no, che non comincia male. Sì, qui comincia male, molto, molto male. Beh, comincia male se vuoi che cominci male, per me non comincia male. Se mi parli così è perché vuoi che cominci male. Senti, io ti parlo come voglio, hai capito? Adesso prendi tutta quella catasta e la porti qua, dai, che non si muove da solo. Forza. Se mi parli così tra di noi non funziona. È carino da parte tua, ma io me ne sbatto altamente di come funziona tra di noi, capito? Dai. Sì, e sbaglia a sbattertene. Perché quando comincia male, comincia molto male. Adesso sarebbe meglio che tu smettessi di parlare e cominciassi a lavorare, eh? Forse tu non hai capito. Ma perché rompi i coglioni? Cosa c'è da rompere? Prendi quella roba e la porti qua. Va bene, d'accordo. Ah! Va bene, d'accordo, bene. Ma allora, d'accordo. Allora, prendi tutta quella roba, la porti qua. E per favore, zitto. Qui comincia terribilmente male. Dai, su, prendi quella roba e la metti qua, dai. No, te la spacco sulla testa quella roba, se non mi parli in un altro modo. Oh, ma chi ti credi di essere, Lo sai dove siamo qui, ma soprattutto chi sei tu? No, te la spacco sulla testa e ci metto anche poco. Bravo. Così almeno non ti farai nemmeno la giornata di lavoro. Ah sì? Allora. Se io non mi faccio la giornata, tu non hai idea in che condizione finirà la tua di giornata. Cosa fai, minacci? Io? Tu mi stai minacciando. Io ti dico soltanto come ti va a finire se metti in pratica la tua minaccia. Che vuol dire? Che sta a te decidere se vuoi tornartene con le tue gambe a casa stasera. Ma questo è fuori come un balcone. Guarda che c'è qualcosa che non ti funziona alla testa, lo sai? A te la scelta. Di che? Dipende da te. Buongiorno! Come va? Tutto bene? Ah, lei è nuovo qui? Ma le ha spiegato tutto? Non è che il lavoro sia tanto difficile da capire, è solo una questione di ritmo, perché qui il flusso deve essere teso. Adoro questa espressione, come è il flusso? Teso! Un ritardo è della catastrofe, un ritardo e quello è l'orrore. Ma negli anni prima, sai, eravate almeno in due a svolgere questo lavoro, ma che vuole? Adesso la direzione non ha voluto saperne, ne hanno preso uno solo. Ma io ve l'ho detto che non era ragionevole, ma hanno solo un'idea in testa, ridurre al massimo il personale. Per un po' l'ho fatto io il lavoro, sì, con lei, si ricorda? Caricavamo, scaricavamo insieme. No, io questo glielo dico perché deve capire che deve mettere il turbo se vuole tornare la prossima settimana, perché qui il flusso deve essere teso, bravi. Poi ci sono, sì, i premi, a Natale. Interessante, no? Poi la sua agenzia ci ha detto che lei non ha nulla contro gli straordinari, allora tutto procede per il meglio. Via, dobbiamo fare spazio dappertutto per dei grandi scatoloni che io credo contengano enormi animali di peluche, panda, ippopotami, elefanti, giraffe. Forza, vi lascio lavorare che vi ho fatto perdere tempo, invece qui il flusso deve essere teso, bravi. Lei è la lista di consegna. Allora, quando ha un secondo, passi da me in ufficio. Buon lavoro! Te la scopi? Che tempismo. Sì, comincia male qua. Io ti ho avvertito, non mi hai dovuto ascoltare. Facciamo così, diamoci del lei, così almeno ogni vacca rimarrà chiusa nel suo recinto. Che storia è questa delle vacche? Facci perdere. La cosa migliore è che cominciamo dall'inizio, con tranquillità. Guardi, le chiedo scusa, e qua il lavoro deve andare avanti. Va bene, d'accordo. D'accordo? Benissimo. Oh, allora, per favore, può portare tutto quel materiale qui? Certo. Poi io dopo le spiegherò come sistemarlo. Va bene? Bene. Solo una cosa. Sì. Te la scopi, eh? Un pezzo di... Dove lo fate? Lo fate nel suo ufficio? Lei vuole che tu la raggiunga di là? Sì. E la fotti sulla scrivania, grande, alla tua età, brava! Prendi la tua roba e te ne vai, vai! No, ma non ti riproverò niente, io farei lo stesso a posto di scopare. Cosa c'è di meglio? Avere una bella storia sul lavoro, puoi scopare anche un po'. Prendi la tua roba... sabattino andare al lavoro, che dici? Bravo! Prendi la tua roba e te ne vai, dai, è finito! Come prendi la tua roba? Ah. No, ma Appena l'agenzia saprà che non sono riuscito a rimanere neanche al mattino, non mi chiameranno più. Certo. Come certo? Sai cosa vuol dire questo per lei? Devo partire da... lascia perdere. La chiameranno, vedrà che la chiameranno. Scherzi? Hai mai lavorato per un'agenzia interinale? Ti trattano come una merda. Il minimo problema è il contratto, te lo puoi scordare. Che ci posso fare io? Lei che si è ficcato in questa situazione di merda. Sì, però... Però lei potrebbe chiamare l'agenzia. E dirgli che? Ho una moglie e due figli io. Appena torno a casa e dico a mia moglie che qui non ha funzionato, mi scoppia l'inferno a casa. Questo lei lo capisce, no? Bene, se vuole il telefono all'agenzia e gli dirò che trovino un posto per lei il prima possibile. Davvero? Sì. Lo farà? Se dico che lo faccio, lo faccio. C'è il mio matrimonio in gioco, eh? No, se lei se ne vuole andare, guarda, dirò anche che è stato un nostro errore. A volte che sono sconvolto da quello che lei fa per me. Se lei vuole può andarsene via tranquillamente. Con mia moglie è terribile, sai? Siamo sul punto di divorziare. E ho due figli. Pensa un po'. Tu sei sposato? Certo. E a tua moglie farebbe piacere sapere che ti scopi un'altra sul lavoro? Senti, cosa vuoi? Voglio che mi parli normalmente. Che la smetti di trattarmi come un cane, ecco che cosa voglio. Ma io non ti tratto come un cane. No, se tu mi tratti come un cane, da quando sono arrivato qui dentro. Ascolta, facciamo così. È la cosa migliore per tutti. Ricominciamo a lavorare, sì, forse ti ho trattato un po' troppo bruscamente, va bene, tiriamo una riga su quello che è successo e ricominciamo. È una proposta sincera, eh? Non lo so se me la sento adesso. Tu mi hai gelato dall'inizio. Io non lo so se ce la faccio a ricominciare. Senti, ma pensa a tua moglie, pensa ai bambini, dai, questa è la soluzione migliore per tutti. Oh, ma io non sono mica sposato. Prima te lo stavo dicendo tanto per dire, no? Uno ha un problema, dice sposato. Guarda, sei un fenomeno. Vabbè, non si può. Stavo scherzando. Ma scusa, è tutto uno scherzo. Ma sì, non si può più neanche scherzare. No, si può scherzare. No, ma scusa, se parlo di gente che stavamo scherzando, io capivo. Bisogna divertirsi. Sposato, sì, no, andiamo. No, sono d'accordo che bisogna divertirsi quando si può. Anche lavorare. Ma pensa che... Dai, sono grande. Ma Wonder Woman è sposata? Dico, lei è sposata? No. Dai, e ti ha rimocchiato lei o sei stato tu? Guarda, secondo me è meglio che cominciamo a lavorare, perché dopo faremo troppo tardi e bisogna recuperare. Dai, quindi... ti ha rimocchiato lei? No, sei stato tu. Ho capito su. Sei stato tu? Sei stato tu? Ma perché lo vuoi sapere? A me piace conoscere le dinamiche dei posti in cui lavoro. Allora, ti è rimorchiato lei o sei stato tu? Sei stato tu, io l'ho capito subito che sei stato tu. Bravo, sei stato tu, sei un grande, ma bravissimo. Ma no, dai, nessuno ha rimorchiato nessuno. Ma stai lì che lavori, fai l'inventario, tac, succede. Ma è una storia così. Adesso. Mi sono pentito quasi subito. Capisco. Però, E tu non sai come uscirne adesso? Sai, è la mia superiore in gerarchia, quindi... Ci ha preso gusto la troia. Tiene un po' per le palle. Che merda. Però quando vuole la sua dose, io non ho interesse a dirle di no. E più volte al giorno? No, ha interesse a mantenere la forma, capisci cosa voglio dire? Non sto, ma sei un grande, ma sei proprio un grande. Però questo mi fa girare le palle a me. No, sai che questo è il genere di cose che da sempre mi ha fatto girare i coglioni. No, dico, sai che si parla sempre degli abusi sessuali sul lavoro, no? Sono sempre gli uomini che abusano sulle donne, ma delle donne non si parla mai. Quando lo fanno le brave donne, per me è ancora più schifoso. Voglio dire, in questo caso l'uomo perde la sua dignità, no? Diventa un po' come una puttana. Cominciamo a lavorare, eh? Dai, chiedi il tuo ritmo, non facciamoci fregare, poi dopo ti do una mano anch'io, dai, vai. Comunque spero che te la fotti sulla scrivania. Tranquillo, che non si può lamentare. Ah sì, ma ti chiedi di fare il servizio già la mattina? Non voglio farti fredda, però bisognerebbe. Ma io penso a te, costretto a darti tutto il giorno, con tutte le cose che hai da fare qua dentro. Bello, io tengo sotto controllo, capito? Tengo tutto sotto controllo. Ah sì? Ah, bene. E tua moglie? Che c'entra mia moglie? Ma dico, non si lamenta? Beh, la mia moglie non lo sa, è chiaro, no? È ovvio che non lo sa, bello, bello. Certo che non lo sa, sono tu e la tua puttana, lo sapete. E io, tu la puttana. E io? Già. No, mi domando se tua moglie non si lamenta un po' con tutta la tua scuri. Sarebbe normale, visto che sei costretto a scopare tutto il giorno. Allora, scopiamo tutto il giorno. Piatra di stronzate! Neanche la Rino ti dice di andare di là per cominciare la giornata. Piatra! L'ho capito subito con la cagna in calore, eh? Perché non mi dici la verità? Ma è la verità! A volte non lo facciamo, ma come lo fai? Ti chiede di farle delle cose da malata? Ah? Senti, ti chiede di farle delle cose da malata? Prima di parlare con ciascuno. Lei non è sposata, questo non le crea problemi, perché lei torna a casa, si prepara da mangiare, si stende davanti alla televisione, lei si addormenta. Tu non ti puoi stendere perché ti devi rimettere in faccia. Se non vuoi che la coppia scoppi, non è così? Vorrei che si smettesse di parlare di mia moglie. Ma io penso a te, costretto qui a darti tutto il giorno con tutte le cose che hai da fare qua dentro. Senti, io tengo sotto controllo, però adesso ricominciamo a lavorare. Te ne approfitti facendo dei numeri che non faresti a tua moglie? Te ne approfitti facendo dei numeri che non faresti a tua moglie? Sì. E allora che cos'è? Una maiala. Una maiala, bravo! Perché tutte le donne che portano i tacchi sono maiali, che si sappia. E tu che cosa sei? Un porco. Un porco sei! Bravo! Tuo malgrado sei un porco, la puttana che lo spinge a diventare porco. Tu arrivi lì nel suo ufficio, entri, vai dall'istante, si fa trovare lì, allarga le gambe. Sono costretto che non porta le mutande, vero che non le porta le mutande? Lo abbiamo capito che non le portava le mutande. Si stende sulla scrivania, la zozza maiala, e tu cosa devi fare? Sei costretto a scopartela come un ossesso per non perdere il posto di lavoro, e mentre te la scopi devi pregare Dio, sperando che tua moglie non venga a saperlo. Non è così? Non è così? Non mi sento bene. Ma certo che non ti senti bene, perché tu evidentemente ti senti svuotato. Tu sei una persona sensibile, io l'ho capito subito questo. Diventi irritabile. Non mi stupisce infatti che tu mi abbia trattato male quando sono arrivato. Per l'inferno che hai dentro. E per questo, sono irritabile, capito? Una specie di esaurimento nervoso. È per questo che ti ho trattato male. Ma non ti preoccupare, perché io non ce l'ho. Ah, no? No, non ce l'ho con te, anzi. Voglio fare qualcosa per te. Per me? Sì, qualcosa per te voglio fare. Sì, me la scopo io per te. Per tutto il periodo delle vacanze, così tu puoi rilassare, torni a casa, fai l'amore con tua moglie e ti godi anche le vacanze, no? Non mi sento bene, davvero. Ma certo che non ti senti bene, perché tu pensi a tua moglie, a quello che potrebbe succedere se scoprisse la verità. Vorrei che non si parlasse di mia moglie, è chiaro? Bello, io ti rendo un fottuto servizio. Ma dovreste ringraziare! Oh, la spacco in due! Non ti preoccupare che non ci perderà nel cambio! E no, non ti stupire quando tornando dalle vacanze la vedrai camminare come un'anatra a quattro zampe! No, ho stato io! Aspetta! Ah, ho dimenticato di dirti la cosa più importante! Sono appena uscito di galera! Sarà Natale anche per lei! Galera. Eh sì, non te l'ho detto prima perché non ho avuto il coraggio. Ma ormai siamo diventati amici. Sei stato in galera? Sì, signore. Per cosa? Non lo metto mai nel curriculum. Ma per... sì, ma no, solo per sapere. Che il motivo? Tentato omicidio. Omicidio. Tentato omicidio. È diverso. Io gli volevo dare solo una lezione. Gliel'ho spiegato ai giudici, ma quelli non l'hanno voluto capire. Siccome la voce ha fatto due o tre cazzate, non mi hanno assolto. Banda di bastardi e stronzi, proprio io stesso. Sai cos'è che non mi è piaciuto? La sbarra di ferro. Quella non mi è piaciuta. Se io avessi preso un pezzo di legno non prendevo 8 anni. Ma la sbarra era lì, e quando succede che fai? Prendi la prima cosa che ti passa sotto mano, vedi nero e gliela spacchi in testa prima che ti passa vicino, no? Francamente, tu al mio posto che cosa avresti fatto? Non lo so. Certo che non lo sai, perché finché non ti succede non lo puoi sapere comunque. Ma anche quando ti succede. succede non lo sai, perché vede rosso, non capisce più niente, prende la prima cosa che hai sotto mano e tutto lì, non lo voglio ripetere. Cos'era successo per finire così in galera? Ah, niente, era un amico. Mi ha mentito e mi ha rovinato. Solo perché ha mentito? Era un amico. Diceva di essere un amico, la merda. Massacrato perché ha mentito. Allora forse non ci siamo capiti. C'è una sola cosa che mi fa per leggere i coglioni a me, ed è quando mi dicono bugie. Questo proprio io non lo so proprio. Solo per questo. Allora, tutto bene? No, non vi dovete fermare, altrimenti non ne usciamo più, Scommetto che è lui che la ferma per darle dei consigli. Sì. No, ma gli lasci trovare il suo ritmo. I movimenti giusti per uno non sono per forza i movimenti giusti per l'altro. Ognuno ha il suo modo di muoversi nella gestione del lavoro. E lei lo sa bene. Allora, forza, avanti! Dobbiamo fare spazio dappertutto per dei nuovi arrivi. Natale, Natale, Natale. Natale è il periodo benedetto per i consumi, made in China. Che cosa sarebbe il Natale senza i cinesi? Noi regaliamo ai nostri piccoli bambini giochi fatti dai piccoli cinesi, anche se i cinesi non sono nemmeno cristiani. Noi regaliamo ai nostri piccoli cristiani giochi fatti dai piccoli maoisti. Ma sono maoisti? Sì, sono maoisti. Ah, beh, poco importa, tanto non si festeggia certo il Natale nel maoismo. Quindi noi regaliamo ai nostri piccoli cristiani i giochi fatti dai piccoli maoisti che tanto non festeggiano il Natale e si accontentano di fabbricare giocattoli per i nostri piccoli cristiani! Ah, forte! Non si pensa mai a questo genere di cose. Beh no, però è un ragionamento profondo. Eh sì, questo. Quando si vede passare giocattoli tutto il giorno ci si pensa a queste cose. Beh certo, la capisco perfettamente. Forza al lavoro, che perdiamo tempo a discutere! Sai che ultimamente ho fatto uno straordinario da un'altra parte? Una settimana a scaricare banane del Madagascar. Tonnellate e tonnellate di banane. Forse io solo ho scaricato tutte le banane del Madagascar in una settimana. Sai che sono i bambini che le vanno a tagliare dei banani, le banane, e questi bambini non se le possono mangiare le banane perché sono tutte per l'esportazione. Possibile. Allora dico, non sono cristiani, nemmeno loro, sa? Sono di quelli che laggiù adorano gli alberi, gli antenati. Diciamo che la religione è piuttosto voodoo. Davvero? Eh sì, no? I maoisti costruiscono i giocattoli per i cristiani, eh? E i voodoo ne riforniscono le banane, eh? Lei che ne pensa, Non un granché, mi sembra. Allora lasci quest'uomo fare il suo lavoro e mi segua, che noi dobbiamo discutere di certi dettagli. Qui si chiacchiera, intanto il lavoro non procede. E vengo io. Prego? Vengo io al suo posto. Oh, molto gentile da parte sua, ma credo proprio che non sia il caso. Noi forza no! Ci vengo io, nel suo ufficio. Oh, guardi, è davvero molto gentile, ma vuole venire nel mio ufficio a fare che? A fare quello che fa lui. Oh, davvero? Non credo abbia le competenze richieste. No, lo rimpiazzo io. No, non può rimpiazzarlo. Mi provi. È da tanti anni che mi alleno da solo, 8 anni non so. Non rimarrà delusa. Forza, noi nell'ufficio. Ma non lo tratti così. Capisci o no quello che dico? Non lo tratti così. Prego? Dunque è un uomo. No, scusa. Non è un cane, no? Ma lei è fuori di testa? Sì. Ma cosa fanno all'agenzia interinale? Ma come si permette di trattarmi in questo modo? Ah, se ci vuole andare, lo zuccherino, Non ti prendere lo zuccherino, su! Sì, no, è completamente fuori di testa. Se lei fosse sposata lo saprebbe che un uomo si rispetta. Ma siccome lei non è sposata, questo non lo può capire, no? Non è alla minima idea. Ma che cosa sta dicendo? Dico che ci sono cose che si capiscono solo quando si è sposati, quando si vive con un uomo. Ma per lei che cosa sono gli uomini? Lo schiavi. Lei li prende questi uomini e li sbatte via quando sono. No, ma questo è fuori di testa. Scusi, ma se faccia una domanda e si chieda perché all'ultimo gradino di una scala, forse capirà che ha problemi a prendere ordini da una donna. Ah no, a casa mia moglie comanda e la cosa mi piace. Bene, allora me la saluti tanto, Quando non si è sposati non si può capire. Ma cosa sta dicendo? Ma che quando? No, no, non si. Quando non si è sposati certe piccole cose non si possono capire. Ma non capisco cosa dice, fuori di testa. Quando non si è sposati non si può capire. Ma io sono sposata. Fantastico! No, ma non scherzo, è un fenomeno! Ma cosa fa? Vabbè, sa tutto. Sa tutto cosa? No, io non li sa tutto. Non capisco. Non so come ha fatto, l'ha indovinato, io non lo so. Io non capisco che cosa stai dicendo, non capisco. Ho minacciato di dirlo a mia moglie, capito? Non capisco che cosa sta dicendo. Perché sei capace di tutto, mi ha minacciato fisicamente. Forza, dobbiamo riprendere il lavoro, qui si parla, si parla. Non so! Quello ha fatto la galera, hai capito? Quello è fuori di testa, è capace di tutto. Già, ha fatto la galera come omicidio. Tentato. Scusa. Ma non potevi chiuderla? Ma io no. No, scusa. Non potevi chiudere quella bocca? Calma. No, dovevi stare zitto, dimmi che non è vero. Ti spiego. Dimmi che non è vero. Ma non è colpa mia. Ma cosa fai? Vai dal primo veterinario che arriva e gli racconti che c'hai una relazione in azienda. Poi ti faccio capire che dimmi non è andata. Dimmi che non è vero, per favore. Non è andata così, puoi capire. Ma cosa vuoi fare? Divertirti con l'interinale alle mie spalle? Mi diverto con l'interinale alle tue spalle. Dimmi che non è vero, per favore. Comunque mia moglie ne deve restare. No, ma mio marito, ma ti rendi conto che merda mi hai messo? Dimmi che non è vero. Scusa. Dimmi che non è. No. Ma tu non sei un uomo. Avete finito? Lei che cosa vuole? Soldi? Tu mi hai mentito! Non sapevo che fosse sposata. Ma sei proprio una merda! Ah, ho l'impressione di aver fatto scoppiare una coppia, quel terribile. Ora però non mi vorrei trovare costretto a farne scoppiare altre. Che cosa vuole? Gliel'ho detto. Sostituirlo. Fino a quando? Fino a quando va il mio contratto? Natale. Fino a Natale. Una volta per ogni giorno lavorativo? No, due. Com'è qua la storia del flusso? Che è teso. Andiamo. Le piacerà. Non mi parli. Sarà lei a parlarmi. Sarà lei. Cosa stiamo facendo? Ah? Su, prendiamo questa catasta e portiamola di qua. Che non si muove da sola. Su, a lavoro. Questa è una sedia del Festival dell'Unità. Festival nazionale di Reggio Emilia del 1983. Quando l'apri si sente ancora odore di costine. Su questa sedia si è seduto Enrico Berlinguer. L'anno prima di morire ha fatto il grandissimo comizio quell'anno a Reggio Emilia, più di 1 milione di persone. Quella volta che Benigni l'ha preso in braccio anche. E poi si è seduto qui a mangiare le sue salamelle. E io l'ho tenuta come una reliquia, perché questa porta l'impronta. Avevo anche un pezzo del muro di Berlino, però ho pensato che questa sia. Thank you. Poi è severamente vietato ai locali pubblici, quindi una sala d'attesa. Eppure si ha sempre voglia di fumare in una sala d'attesa. Credo sia l'attesa che produce questo. Per i fumatori, intendo dire, mica. Uno vorrebbe anche andare di là a fumare nel corridoio, ma è già anche nei corridoi. E che ci sono delle volte che uno ha davvero una voglia tremenda di fumare. Direi che fumare diventa un bisogno. Fumare è una necessità vitale. Per i fumatori, chiaro. Come quando dai un esame. Io tutte le volte che ho dato un esame in vita mia avrei voluto averne una. Va bene, però adesso basta. Prego. Fai silenzio. E questo silenzio, io... Quando ero bambino, i miei genitori avevano... Ma che hai voglia di raccontarci tutta la tua infanzia? Perché no? Perché non ci interessa. Allora, no, non si può più parlare. Ti fa proprio piacere star così senza di niente. Ma insomma, non siamo qui per divertirci. Ma nemmeno siamo a un funerale. Ah sì? Cos'è? Stai cercando lavoro come animatore di discoteca? Cosa ti prende per blaterare a Barbera così? Vi dà fastidio che io parli? Imbarazzante. No, guarda, è insopportabile. Ma ti rendi conto che stai disturbando tutti? Sì, la parola decenza per te non vuol dire niente. Ma io stavo... Io cosa? Ma cosa credi? Che qui ognuno non abbia i propri problemi personali? Che invece dobbiamo stare qui a ascoltare te quello che c'hai da dire? No, per favore, scusa, ma stai zitto. Mi dispiace davvero, mi dispiace. Non ci credo. No, ma è insopportabile. Fai qualcosa, per favore. Cosa volete che vi dica? Ma insomma, non ti abbiamo chiesto niente. Fai silenzio. Devi capire che qua siamo in questo spazio, che è uno spazio anonimo. Il tempo che noi adesso stiamo trascorrendo qua è un tempo sospeso. Noi abbiamo scelto di venire qua, sì, però poi alla fine siamo obbligati a stare qua. Ma non è che siamo obbligati a partecipare a... Questi momenti sono momenti sospesi, capisci? Sì, so che credevo che noi... Noi, ma solo il nostro corpo qui. Non c'è che il corpo. Noi adesso dobbiamo fare un vuoto dentro, non pensare a niente, non pensare agli altri, non pensare a noi stessi e non parlare. Perché se noi adesso parliamo, torniamo in noi. Quindi non ha senso parlare, non serve parlare. Anche io stessa adesso che sto parlando, mi costa parlare, non lo so perché, ma mi costa parlare. Appunto. Tutti parlano adesso, quando vuoi. Però farebbero meglio tutti a tacere. Anch'io vi sto parlando. Oh, vi sto parlando, guarda un po', ecco, sono partito. E vi parlo. Ed è il colmo che io sia qui a parlare come se... Voglio dire, mentre io vi parlo, veramente voglio solo una cosa. La sola cosa che voglio veramente è che tutti stiano zitti. E che anch'io stia zitto. Ecco la sola cosa che voglio veramente. Che tutti stiano zitti e che anch'io... Non dico altro. Che nessuno dica una parola. Veramente... Non puoi dire questo. Con chi stai parlando? Con te. Non puoi dire che più nessuno dica una parola. Non hai il diritto di farlo. Ma è quello che penso anch'io. Sì, però non puoi imporlo agli altri. Ma io parlando così mi stavo facendo il tuo portavoce. Sì, ma non puoi imporre un diktat. Non siamo in Cile. In Cile adesso tra noi, ma ti rendi conto? Ma guarda che roba. Ma c'hai un atteggiamento fascista. No, allora bella, forse c'è qualcosa che non ti funziona nella testa. Io ho detto semplicemente che data la situazione sarebbe preferibile che tutti stiano zitti e tu mi paragoni a Pinochet. Io questo non lo sopporto. Vabbè. Sentite, io non vorrei dirvi, ma... Ma te lo posso dare un consiglio? Guarda, intimidazione fascista! Ma che cosa c'entra il fascismo qua dentro? Qui ognuno può esprimere la propria opinione, mi sembra. Appunto. Vedete, è impossibile. Cosa? Cosa? Hai questo atteggiamento, rimanere nel vago. È snervante. Ci costringi a finire le frasi al posto tuo. Come se noi fossimo obbligati a finirle al posto tuo. Ci costringi a uno sforzo di concentrazione nel cercare di capire qual è la tua idea iniziando una frase senza finirla. Ma le parole sono tue! Allora prenditi la responsabilità dall'inizio della frase fino alla fine. Non è che puoi vigliaccamente interromperti obbligando noi a condividere una tua idea che noi, forse, nemmeno la condividiamo, forse proprio per niente, ma costringendoci a far finire la frase al posto tuo, porca miseria! Scusa. Ma te la posso dire una cosa? Certo che tu hai un dono. Ed è quello di fare scappare la gente quando apri bocca. No, no, non dire niente, tutti hanno un dono nella vita. Il tuo è quello di procurare un rinculo istintivo nel momento in cui apri bocca. Sì, la gente all'inizio ti ascolta, sì, per un po', per educazione, ma dalle prime parole hanno già sentito troppo. E allora rimangono, e dopo un po', quando tu cominci a parlare, non hanno che una sola idea in testa, ed è di lasciarti il prima possibile. Non ne so, sarà una maledizione, che devo dire. E che le parole invece corsano nella testa, si formano frasi e poi appena formulate scompaiono. È l'estate, credo. No. Faceva bello. È l'estate. Perché lei amava sempre andare al ristorante quando faceva bello e caldo. Hai presente quelle serate d'estate, un mese di agosto? Io la portavo al ristorante, una pizzeria sul viale. Lei amava quel dehors che si spingeva fin sopra il marciapiede. Le piaceva che la gente passasse vicino a noi quasi a toccarci. Che le loro mani sfiorassero le pizze. Allora lei prendeva la forchetta e giungeva le mani dicendo: lascia stare la pizza, scemo! E questo genere di cose le dava gioia. Diciamo che era piuttosto giocosa. Poi a un certo punto, nel ristorante le interessava più. Né lo star con me, non. Interessato. Ma posso dirti una cosa? Qui ognuno potrebbe raccontarti una storia di questo genere. Sono tornato al ristorante come se niente fosse successo. Quando sono tornato a casa lei era sparita. Allora ho acceso la televisione come se niente fosse successo e ho aspettato che tornasse. Mi sono coricato come se niente fosse successo e ho aspettato che lei tornasse. Ho preso un libro, ascoltando tutti i rumori che c'erano fuori dalla porta, sull'ascensore, nella tromba delle scale. A metà della notte mi sono alzato e sono andato a cercarlo. Questo è durato per delle settimane. Prendevo il tram, l'autobus, poi il treno, le mie giornate di lavoro e poi tornavo a coricarmi sul divano. Mi alzavo nel pieno della notte e camminavo per le strade. Camminavo per ore. Non desideravo che finisse, perché non desideravo più niente. Ero solo un uomo che camminava di notte nelle strade. Era tutta mia la città, mi ricordo, e io ero tutta la città. Eravamo una cosa sola, era una sensazione strana. Sì, sentivo la città come improvvisamente solidale con me, mentre l'avevo sentita sempre ostile. Scoprivo quanto poteva essere la città benevola, benefattrice, affettuosa. Lei mi ascoltava con un'attenzione materna e anch'io l'ascoltavo. Sentivo le sue pulsazioni, le sue profondità, le sue vite sotterranee. Sentivo la tristezza infinita dei suoi abitanti, la loro grande solitudine, e capivo perché erano in una solitudine così grande e provavano così tanta tristezza. Era una comunione magica tra me e la città. Cosa si prova in quei momenti è difficile da dire, tanto questo supera l'universo delle parole. Le parole, quei momenti là, non riesci più a formularle. Solo lamenti, gemiti, cigolini. Forse la chiamavo ancora, ma il più delle volte era il silenzio che ricopriva tutto. Si può sfuggire al dolore, non so come. Voglio dire che a un certo punto lui ti lascia tranquillo, non si interessa più a te. È come se per lui tu sei diventato uno straniero. È lui che decide il tempo e l'ora, non dipende dalla tua volontà. E quando pensi di non poter più andare oltre, scopri che c'è ancora un altro. Quando ha finito di rosicchiarti le midolle, portarti via il cervello, allora... allora là ti lascia. Ti lascia andare. Ma c'è qualche cosa dopo il dolore. Io cominciavo a sentire cose strane. Sensazioni di esplosione, di dilatazione lente, dolci, come le bolle di sapone, che scoppiano nell'aria senza violenza, senza dare quell'idea di violenza che normalmente accompagna l'idea di esplosione, così, così. Ti senti esplodere dentro, e le esplosioni che esplodono a loro volta, senza violenza, e le particelle che ancora si dividono, ancora, ancora, fino a non potersi più suddividere. E allora là, là le porte dell'infinito si schiudono. Là comincia ad avere una comprensione segreta del mondo che non finisce più di darsi. Tanto tu sei diventato speciale adesso, così vicino al niente che il tutto ti accetta. Ti siedi su una panchina, chiudi gli occhi e tutto il tuo corpo per intero si apre a ciò che normalmente rifiuta. Invisibile, entra, esce, come il vento dalle finestre di una casa abbandonata. Capite cosa voglio dire?